Petrus Johannis Olivi über Ubertino da Casale und Angelo Clareno. Will uns jetzt Frau Pastor einen Bericht erstatten. Sie legt freilich Wert auf die Feststellung, dass es nicht darum geht, das Festival Francescano von heute Vormittag fortzusetzen, sondern sie möchte sich auf das Thema L'Escatologia Geomitica nel Francescanesimo beschränken. Ich darf abweichen vom Usus, dem wir natürlich im generell folgen werden. Ich werde Frau Pastor gleich bitten, sich selbst vorzustellen. In diesem Fall einmal ganz kurz abweichen mit einer persönlichen Bemerkung einer meiner persönlich ersten Begegnungen mit Petrus Johannis Olivi. Bestand in der Lektüre des Aufsatzes, des bekannten Aufsatzes von Frau Pastor über den Prozess des Petrus Johannis Olivi. Und ich kann sagen, dass die pünktliche und chronologisch klare und sachlich durchdachte Darstellung mir damals den ersten Zugang zu Petrus Johannis Olivi, der ja keineswegs leicht ist, damals sehr erleichtert hat. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass Frau Pastor heute uns über Petrus Johannis Olivi und seine Sequaces, wenn ich so sagen darf, Ubertino von Casale und Angelo von Clareno, der weniger ein Sequax des Petrus Johannis Olivi ist, berichten wird, aber die eben zusammengehören, deswegen, weil sie Franziskaner sind. Ich darf Frau Pastor bitten, sich selbst vorzustellen und dann ihr Thema uns zu präsentieren. Bitte sehr. Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente e ricordarla di un certo incontro in casa nostra dove abbiamo fatto una grossa discussione di Ubertino tra lui, Charles Davis e me tanti anni fa. Dunque, io insegno storia medievale all'Università di Roma La Sapienza, mi sono laureata con il professor Raffaello Morgan come compagno di studi del professor Capitani. Tra l'altro, e la mia tesi di laurea riguardava San Ludovico d'Angio, vescovo francescano, che è tutto un programma, perché da un lato è il figlio di Carlo II d'Angio, dall'altro lato è un francescano appartenente ad una certa corrente spirituale, perché ho molto apprezzato le distinzioni fatte questa mattina dal nostro presidente, dal professor Mitke. E nello stesso tempo Bonifacio VIII, un po' per questo suo orientamento contrario al francescanesimo spirituale, gli dà anche un episcopato che Ludovico cerca, a cui Ludovico cerca di rinunciare, però muore troppo presto per poter rinunciare. Dunque, dopo questa tesi di laurea mi sono occupato per lungo tempo con la storia della Curia Romana e della Cancelleria Pontificia, problemi di registrazione, eccetera. E poi, tornando all'università, dove ero per me un segno di fierezza, per 16 anni assistente del professor Manselli, ho ripreso i miei studi sul francescanesimo. Questi studi di francescanesimo sostanzialmente hanno due sbocchi. Da un lato le fonti francescane, soprattutto del 200 fino al 1318, cioè questo primo gruppo che rappresenta Francesco prima come persona vera e dopo come Francesco mitizzato, fino allo speculum perfectionis. E dall'altro lato il problema del francescanesimo spirituale e ivi compreso naturalmente la figura di Pietro di Giovanni Olivi. Vorrei poi premettere un'osservazione che questa mattina ho sentito e di cui sono perfettamente d'accordo, che l'escatologia gioca in mitica nel francescanesimo, è ovvio che non comincia con Pietro di Giovanni Olivi. Ma io non pensavo lontanissimamente di fare una storia francescana. Il mio intento, se volete, è molto più semplice o è molto più diverso dalla splendida lezione del professor Berg, Siccome esistono moltissimi, anzi praticamente sono tutti inediti commenti biblici dell'Olivi, esiste nell'ascito da persone e sedi la trascrizione di questi commenti e esistono vari problemi anche relativi ad Ubertino da Casale, ad Angelo Clareno, che riguardano il gioacchinismo francescano, vi volevo far conoscere questo materiale inedito. Quindi non mi inserisco nella storia francescana, non faccio questo ponte che io ho reclamato questa mattina tra il 66 e il 79, possiamo farlo benissimo nella discussione, e comincio il mio discorso subito con questo problema. Come il pensiero escatologico, cioè la tesi della fine e la funzione escatologica di San Francesco, si trova in questi commenti, soprattutto nei commenti biblici di Pietro di Giovanni Olivi, poi vediamo in altre fonti. La tesi della fine in Pietro di Giovanni Olivi è preceduta dalla tesi della consumatio sulla terra di una penultima fase della storia della Chiesa in un intervallo di tempo che deve aver luogo tra la vittoria sul primo anticristo e l'avvento di Gog con il conseguente giudizio finale. Come periodo vi si riconosce la dimensione della terza età di Gioacchino da Fiore, ma come contenuto, per così dire, come storia nella storia, il pensiero dell'Olivi presenta notevoli variazioni rispetto al modello. Lo stesso suo concetto non resta immobile, sempre uguale, ma incontra nelle successive opere modifiche anche notevoli. L'esame adesso rivolto deve essere quindi, nel modo più possibile, globale. Ci troviamo di fronte nel suo caso, al di là del mutamento del senso immediato delle parole, ad un continuo rinnovamento della meditazione escatologica, che troverà conclusione solo nella sua ultima opera, in quella lettura Super Apocalipsi, che costituisce indubbiamente il compimento di pensiero e di vita di un grande teologo francescano, una delle personalità più originali del 200. Il maggiore studioso dell'Olivi e della coscienza escatologica medievale è indubbiamente non solo in Italia, ecco, è Raoul Manselli, ai cui risultati, soprattutto trascrizioni di testi ancora inediti, appunti, note, corsi universitari, comunicazioni orali, devono molto anche le mie pagine. Nell'ambito di quel che formerà la prima parte di questa relazione, vale a dire le caratteristiche di questa particolare fase pre-finale della storia, Raoul Manselli ne ha chiarito le somiglianze e le diversità con la rappresentazione gioacchimitica, il doppio anticristo, la visione cristologica, il carattere di prova e di sofferenza, Babylon, la terza età, concetti come la appropriatio, la condescenzio, la concurrenzia, per ricordare solo alcuni dei vari problemi da lui posti e risolti. Tutto ciò considero come già acquisito nella storiografia oliviana, senza soffermarmi sulla sua spiegazione. Altri studiosi e altri lavori hanno dimostrato nell'ultimo trentennio e più, dunque il libro di Raoul Manselli è del 55, come abbiamo sentito ieri dalla professoressa Di Matteis. Gli ultimi scritti di David Boer e di Paolo Vian giungono fino al 1987, quindi grosso modo è un trentennio. Durante questo periodo l'interesse suscitato da questo grande francescano è stato enorme, però in realtà, diciamo la verità, ancora non è stato pubblicato nessuno dei suoi commenti biblici. A Roma ci sono vari lavori in preparazione, ma non so, forse durante la discussione sentiremo se in Germania succede altrettanto. Ma In merito ai scritti recenti, recentissimi, soprattutto ma non esclusivamente americani, avrei da sollevare due osservazioni metodologiche. La prima riguarda l'uso sempre più esteso, purtroppo, di basare le affermazioni sulle varie tesi dell'Olivi su citazioni di fogli di un singolo codice, senza chiarire il contesto in cui queste tesi appaiono, senza permettere, neppure nell'ambito del singolo commento biblico, di comprendere in quale parabola o in quale fase del racconto vada inserito il passo in questione. Le note fatte in tal modo per quanto riguarda opere inedite e di ricca tradizione manoscritta come sono quelle dell'Olivi, sono soltanto dati eruditi che nella loro scarsità possono sollevare anche sospetti e dubbi e non aiutano di sicuro a comprendere né Olivi né il suo rapporto con altri esegeti contemporanei. L'altra osservazione si riferisce invece al convincimento espresso da alcuni autori secondo cui ai lettori delle opere dell'Olivi erano familiari le tesi di Gioacchino e così potevano comprendere le allusioni del francescano senza obbligarlo a particolari spiegazioni. Ma questa è un'affermazione estremamente pericolosa, perché in tal modo, e parlo di studi realmente pubblicati, si crede di scoprire nei testi dell'Olivi riferimenti gioachimitici ogni qualvolta si trova una tripartizione o un riferimento ai numeri 3, 6 o 7, il che è assurdo. Non condivido questa interpretazione, anche perché Olivi poco aveva citato gli scritti dell'abate, ma comunque i passi nei quali l'escatologismo gioachimitico è concretamente presente nelle sue opere sono ben riconoscibili, a chi sono noti gli scritti dell'autore calabrese e sono solo quelli che li debbono essere accreditati come tali. Dopo queste rapidissime pagine introduttive passo al mio argomento, concentrando l'attenzione per la brevità del tempo solo ad alcune manifestazioni dell'escatologia gioachimitica francescana dell'Olivi, valendomi di preferenza, sebbene non unicamente, di opere poco valorizzate finora nella storiografia. Dunque, soprattutto la lettura Super Genesi, Super Lamentazione, Super Isaia, De Fabrica, Templi, Salomonis, la lettura Super Johanna, Super Matteo e altri. Va precisato anzitutto che la periodizzazione gioachimitica dell'Antico e del Nuovo Testamento, secondo la linea di una concordanza comune, trova raro riscontro nelle opere dell'Olivi. Egli ricorre con maggiore frequenza alla riunione in un unico processo evolutivo di tutta la storia umana. In proposito, talvolta si vale dello schema agostiniano, tal'altro applica invece una sua propria visione alla storia secondo uno schema scandito in quattro o in tre tappe. Così, nella lettura Super Genesim, commentando il terzo capitolo, la tentazione alla caduta di Adamo ed Eva, descrive il serpente sotto sette forme, il che lo induce a valersene come chiave di volta per una lettura allegorica della storia sacra. Le prime due riguardano l'Antico Testamento ed in concreto gli ostacoli contrapposti dei maghi egiziani a Mosè e l'azione dei pseudoprofeti per sedurre e rendere idolatrico il popolo di Israele. La terza e la quarta sono del Nuovo Testamento e il disprezzo rivolto a Cristo da parte dei scribi ipocriti e dei farisei e il falso insegnamento impartito su di lui dai pseudoapostoli. La quinta è rappresentata da Ario e da Ariano. Con la sesta forma ci avviciniamo al quinto stato gioachimitico della storia della Chiesa, Essa ha come protagonisti gli pseudo-religiosi che, avidi ed ambiziosi di gloria temporale, cercano di agire contro la purezza delle regole monastiche di quella evangelica. Olivi ne precisa, ed è precisazione cronologicamente importante, che essi sono già in azione ai suoi tempi, in molte regioni. La settima forma corrisponde a quella della bestia apocalittica che sale dalla terra con due corna, che la rendono simile ad un agnello ma che parla come un drago e che è l'immagine della setta e della gloria dell'Anticristo. Come si vede dunque in questo capitolo della lettura Super Genesim, la storia conduce direttamente all'Apocalisse, ma si ferma all'arrivo del primo Anticristo. Le colpe del quinto stato restano inoltre chiuse nell'ambito dei regolari. Anzi, l'autore parla solo dei monaci e dei seguaci della regola evangelica, cioè dei francescani. La sua visione diventa però più ampia in questa stessa opera quando più avanti, giunto al sesto capitolo della Genesi, Olivi passa dal commento della colpa della prima coppia ai fatti che portano al diluvio. Nel suo discorso trova già posto tra i pericoli che dall'interno minacciano la vita della Chiesa nel quinto stato anche il clero, non solo i regolari. I figli di Dio, cioè i sacerdoti e religiosi, scrive, sono bramosi smodatamente di diventare ricchi. I vescovi e gli abati sembrano più che personaggi ecclesiastici Reges vel marchiones, accettano potere, forza e fama a seculo. Nel descrivere la mondanizzazione dei valori religiosi, Olivi in realtà parafrasa un brano del quinto libro della Concordia di Gioacchino, senza citarlo però. Aggiunge poi che tale corruzione fa sì che per Eos, cioè per il clero, i religiosi e gli alti gradi della gerarchia, erigantur imago bestie et statua Babilonis. Con questo cenno al comportamento del clero, da condannare invece di ammirare, Olivi si allontana da Gioacchino, che ne è già ricordato passo, parla anche di eretici, quindi di un attacco doppio contro la Chiesa, dall'interno da parte del comportamento del clero e dall'esterno da parte degli eretici. La paura maggiore che Olivia avverte qui, invece, è che perfino i figli evangelici paupertatis, cioè i minori, cedano al richiamo del mondo, raffigurato sotto l'immagine di un amplesso delle figlie hominum con un'impostazione squisitamente gioacchimitica, ut ex eis generent pseudo Christus et pseudo profetas. Questi termini, denotare tra parentesi, così frequenti nella letteratura apocalittica ed in Gioacchino, acquistano nel commento dell'Olivi un contenuto molto più concreto, in quanto riferiti ai francescani. Molti di essi hanno infatti abbandonato la vera imitazione di Cristo, il che dà senso e significato al concetto di pseudo-cristi, e d'altronde, Salimbene ci insegna, proprio tra i frati si era diffuso un gran numero di pseudoprofezie. Da termini generici, divenuti quindi una testimonianza di vita, essi mostrano come il pensiero escatologico e la realtà si uniscono nella preoccupazione dell'autore. Nel commento al capitolo sulla corruzione dell'umanità, sempre nella lettura Super Genesim, Olivi prosegue nella sua interpretazione della storia della Chiesa, il che gli permette di istituire una serie di concordanze tra i suoi tempi e quelli dell'Antico Testamento, nonché di introdurre la figura di San Francesco. Come prima del diluvio, Dio aveva dato a Noè, scrive, uno stupendum signum, toti orbi, per tramite generazioni sue, per conservare dei semen durante il diluvio, così et in tempore nostro videmus quod ante destructionem carnalis ecclesiae datum est toti ecclesiae stupendum signum dominici passionis in patria nostro Francisco, et specialiter in prole sua, in qua reservandum est dei semen. Francesco dunque appare qui come alter noi e come tale con una ben precisa funzione escatologica: salvare il mondo dal nuovo diluvio. Il confronto diventa ancora più prezioso se si tiene presente che Gioacchino, nel suo commento al diluvio nel luogo citato della Concordia, vede in Noè il simbolo di Cristo e che Olivi puntualizza Francesco come alter Christus, richiamando le stimmate come stupendo segno appunto della passione. Troviamo cioè una nuova immagine segnica di Francesco alter Christus, non più solo angelo del sesto sigillo che Olivi del resto valorizza ma con parsimonia, ma come Francesco alter Noè. Il brano, d'altro canto, è pieno di riferimenti che vanno colti e sottolineati. Olivi vede l'arrivo di Francesco come di colui che contribuisce alla distruzione della Chiesa carnale nel momento stesso in cui le colpe inondano il mondo con un nuovo diluvio, al quale richiama anche con l'immagine apocalittica della condanna della meretrice. Questo diluvio appare poi come una necessità storica, in quanto la Chiesa per pressuram diluvi ascendit ad contemplationem evangelici perfectioni sapicem, ed il diluvium sapientiae, caratteristico della vita attiva dei primi cinque stati, porta nel sesto alla contemplazione spirituale. Come al tempo di Noè il diluvio inondava la malignità degli uomini, così, infine, quinte etatis mundi et infine quinti temporis ecclesiastici, scrive Olivi, travolge la cupidigia e la mancanza di pietà per punire coloro che ne sono rimaste vittime. Solo così, nel sesto stato, all'apertura del sesto sigillo, Babylon, ides carnalis ecclesia, sprofonderà nel mare, uccetus pauperum Christi de naufragio nudus evadat. Contemplazione, perfezione evangelica e povertà cristiforme sono dunque indissolubilmente legate nel pensiero dell'Olivi, nella lettura Super Genesim, per quanto riguarda l'attesa del sesto stato. Segnalo anche la presenza, accanto al concetto gioachimitico della contemplazione, caratteristica di questo sesto stato, il richiamo nel Super Genesim alla perfezione evangelica e dallo usus pauper, prerogative dei francescani, in modo speciale dei spirituali. Nella concretezza storica dell'Olivi, come vedremo anche in altre fonti, nella pace che caratterizzerà il periodo successivo alla vittoria sull'anticristo mistico, il problema del francescanesimo occupa un posto ineliminabile. Al Super Genesim conferisce un particolare interesse il fatto che San Francesco, secondo Noè, piacque tanto ai fraticelli e ai beghini che il brano relativo venne volgarizzato in italiano e diffuso tra di loro, con la differenza che ormai siamo dopo le decisioni antispirituali ed antipauperistiche di Giovanni XXII, oltre che di vescovi ed abati corrotti, si parla anche di falsi papi e, con assoluto senso antistorico, l'autore ne viene ritenuto Gioacchino e non Olivi. D'altro canto, il richiamo all'arca di Noè torna anche nella lettura Super Apocalipsi dell'Olivi. La lettura Super Genesi offre delle indicazioni preziose anche per quel che riguarda la struttura della Chiesa nella futura età, indicazioni che confermano la posizione ortodossa del francescano provenzale. Si tratta dell'interpretazione simbolica del corvo e della colomba inviati da Noè in esplorazione. Essi rappresentano, scrive Olivi, duo status ecclesiae designati in Petro et Ioanne. Il corvo est activus et clericalis, la colomba simboleggia statum graciosum et simplicem contemplativorum. Il corvo uscì dall'arca andando e tornando quasi ab aquis et cadaveribus irretitus, senza poter dare signum cessationis diluvie passionum et tentationum, ma sopravvive ed è salvato tra gli ospiti dell'arca. Nella colomba soffia lo Spirito Santo, ispirandole un triplice movimento, il mundialium contemptus, e quindi non trova dove posare il piede inizialmente, il divine unctionis et gratiae amplexus, e dunque il rostro suo affert ramum olivi virentem dopo il secondo viaggio, ed infine il volo ad supercelestia irredibilis quasi a caratterizzare l'esperienza contemplativa. Il settimo stato, circa personem septimi signaculi, debet septiformis dei spiritu insigniri et superimpleri. Con questa analisi della lettura Super Genesim, che ovviamente comprende ancora varie altre considerazioni interessanti che ometto ora per brevità del tempo, ho enucleato alcune delle riflessioni dell'Olivi sulla periodizzazione e sulla funzione escatologica attribuita a San Francesco, nonché la convinzione sancita dall'autore che i francescani spirituali, fedeli al Vangelo e alla povertà, dopo tutte le sofferenze patite, troveranno la realizzazione dei loro ideali ancora qui sulla terra. Mentre i richiami all'Apocalisse, il suono delle trombe, l'apertura dei sigilli, le due bestie, la condanna della meretrice restano stabili e tornano frequentemente nei scritti dell'Olivi, mutano in essi le forme delle periodizzazioni e di segni e di modelli sotto i quali San Francesco viene presentato. Mi dedicherò ora a questi temi. L'articolazione della storia della Chiesa in sette forme la troviamo, per esempio, nella lettura Super Matteum, nei capitoli 11 e 27. Nel primo, Olivi ricorda, nell'ambito dell'elogio del Battista, che per il quinto stato è prevista una multiplicitas lapsibus mortalium peccatorum e per il sesto la predicazione, quindi non la realizzazione ma la predicazione della paupertas evangelica. Tra i due stati appare Francesco come alter Johannes, questa mattina l'abbiamo visto in questa funzione anche nella relazione splendida del professor Berg, per introdurre lo spirito di Cristo o Cristo in spirito, la vita perfetta di Cristo. Mentre Giovanni aveva presentato la intelligentia veritatis incarcerata, Francesco porta alla luce e fa risplendere la intelligentia enigmatum evangelii. Questa verità fu resa manifesta da Cristo con la sua vita, e non è un caso che il secondo a mostrarla sarà Francesco, che porta il segno della passione di Cristo, è sempre Olivi che parla. E così, nella stessa interpretazione, il santo di Assisi è ad un tempo alter Christus ed alter Johannes. In Matteo 27, la settiforme articolazione della storia della Chiesa si svolge nell'ambito del racconto dell'avviarsi di Cristo verso le sue ultime sofferenze. Olivia afferma che la Chiesa, nella sesta e settima tappa del suo decursus in Star Christi, debet crucifigi, sic ut et signa crucis impress Francisco manifeste pretendum. Ciò significa non solo una preeminenza di questi due stati rispetto ai precedenti, proprio perché imitano il modello del gesto supremo della passione, ma anche un elogio per Francesco, perché possiede nelle sue stimmate le insegne che lo autorizzano ad essere la guida in un'età che si prefigura particolarmente atroce quanto ai patimenti. Nel commento a Matteo 13 troviamo una divisione del cursus ecclesiae in quattro parti. L'uscita del seminatore al lavoro rappresenta l'initium seminationis fidei et ecclesiae. Il granello di senape e il lievito ne raffigurano la dilatazione. Il tesoro e la perla simboleggiano renovationem evangelici paupertatis et perfectionis. La rete è gettata nel mare finalem conversionem mundi. Il seminatore è ad un tempo Cristo e Francesco. Cristo per aver gettato semen evangelici e vite, Francesco per aver seminato lo stesso tipo di vita nella sua regola. Ma il frutto pieno in questa parabola, di per sé ricca di un profondo significato escatologico, Olivi lo rimanda in fine temporum consumendum. Nel commento al Matteo 21, descrivendo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, la quadruplice visione riguarda invece più che una periodizzazione vera e propria della storia della Chiesa, i successivi gradi nel cammino spirituale verso Dio. Si tratta del tema della clarificazione. La prima coincide con la fine della sinagoga. La seconda consente la comprensione della scrittura e dell'ultimus finis mundi. La terza ci porta alla visio Dei, mentre l'ultima arriva alla clara contemplatio fidei. Nella lettura Super Lamentationis Ieremiae Profetae, alla fine del prologo, come anche nel prologo della lettura Super Isaia, ma meno particolareggiatamente, Olivi parla di quattro generales captivitates del popolo di Dio. La prima si colloca nell'economia dell'Antico Testamento e la persecuzione dei Caldei contro gli Ebrei. La seconda ormai del Nuovo Testamento. La lotta dei Romani contro i Cristiani dopo la passione di Cristo, ma vivente ancora l'Apostolo Giovanni, che ci lega all'Apocalisse. La terza avrà luogo sub sexto angelo tuba canente e vedrà la bestia che sale dal mare con le 10 corna. La distruzione per fuoco della meretrice e della città grande. La quarta invece riguarda l'avvento di Gog prima del giudizio universale. Precede la fine dei tempi anche nelle Super Lamentazioni su un periodo di pace che prevede non solo l'unione degli ebrei e dei pagani nell'unico ovile di Cristo, ma anche la fine multorum impedientium perfectionum evangelici status aut non plene compatientium se cum ipso. Sono interessantissime le riflessioni sulla tripartizione della storia della Chiesa, che in parte consistono in articolazioni nel tempo, in parte rappresentano la sostanza delle tre età. Così nel Super Matteo 20, nella parabola degli operai della vigna, Olivi precisa che la giornata lavorativa come tale simboleggia totum cursum huius seculi. E così la distingue. L'alba corrisponde al periodo da Adamo a Cristo. L'inizio e l'aumento maggiore del sole, cioè le chiamate verso le ore 9 ed il mezzogiorno, corrispondono all'età tra Cristo ed Anticristo. La consumatio del sole, cioè le chiamate verso le 3 e verso le 5, designano il tempo finale dall'Anticristo fino al giudizio universale. Raggruppando le chiamate del padrone, Olivi in realtà applica la tripartizione geochimica tra sterilitas, fructificatio e consumatio. Nel commento alla parabola, egli indica il proprio tempo come quando il sole sta quasi perpendicolarmente sopra la terra, prima di aver iniziato la sua discesa, quando c'è ancora tempo per il lavoro, prima di giungere alla distribuzione della paga. Nella lettura Super Isaia, nel cursus temporum ecclesius quad diem judicii, si presenta in questi termini: quasi incipit in luce aurore, crescens usquat perfectum meridiam, et sic tantem decrescit per vesperam usquat profundam noctem. Inizio, crescita, decrescita, il problema di fondo di ogni vita umana. Nella parabola delle Vergini Stolte, Matteo 25, è Cristo che scandisce le tre tappe della storia. Nella prima si sposa con la Chiesa, nella seconda torna e siamo nel sesto stato per celebrare le nozze con la contemplazione, nella terza introdurrà le nozze della gloria eterna. Fra la prima e la seconda sua venuta avverrà una cernita, la divisione dei ipocriti e dei farisei dei cristiani, della pula dal grano. È sostanzialmente una variazione della ben nota immagine della venuta di Cristo in carne, in spirito e nel giudizio. Periodizzazione non più della storia della Chiesa ma della società la troviamo invece nella De Fabrica Templi Salomonis. Prima, seguendo il pensiero di Andrea di San Vittore, Olivi paragona i tempi alla mente umana. L'atrio esterno ne simboleggia la sensibilità, quello interiore la capacità di giudicare le cose sensibili, mentre l'interno del tempio rappresenta la ragione superiore che è in grado di comprendere il pensiero divino, contemplando Dio. Ciò trova la sua massima espressione nel Sancta Sanctorum, che è posto alla sommità, sia perché è simbolo della suprema facoltà di mente, quella capace di elevarsi fino a Dio, sia perché la contemplazione rende possibile di divenire un unico spirito con Dio. Il Tempio ha tre mansioni, in corrispondenza alle tre persone della Trinità, ed una triplice base che corrisponde a tre occupazioni. Quella più in basso alla Sancta Operatio, quella media alla Sancta Locutio, quella superiore alla Oratio. Vi si riecheggiano chiaramente la triplice fine e le specifiche occupazioni dei ordini stabiliti da Gioacchino, di cui ieri parlava la collega De Matteis: l'opus manum dei laici, lo studium lectionis e la predicatio del clero, e la psalmodia et oratio dei monaci. La ritroviamo anche nella lettura Super Apocalipsis dell'Olivi, in cui sono previsti per la prima età, per quandam appropriationem ed antonomasiam, l'opera manuale dei laici, per la seconda la lectio eruditio scripturarum dei membri del clero e per la terza la casta e suavis contemplatio dei monaci e degli altri regolari. Nella lettura Super Johanne, il commento dell'Olivia alle nozze di Cana, il capitolo secondo, si presta particolarmente ad un confronto del suo pensiero escatologico con quello espresso da Gioacchino nel trattato Super Quattuor Evangelia, già analizzato minuziosamente da Henri Motu. L'abate calabrese attribuisce il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino alla conversione dell'intelligenza letterale nell'intelligenza spirituale, che si realizzerà nella terza età. Per l'Olivi invece, che segue in questa parte del suo commento Sant'Agostino, l'acqua significa l'Antico Testamento ed il miracolo del cambiamento consiste nel fatto che questa scrittura vetus non est a Cristo improbata, sed in spiritale Christ intelligentia conversa. Nella conclusione della parabola Olivi prevede però anche un altro significato simbolico, la conversione del carnale status in spirituale, interpretazione in cui il primo status appare quasi acqua, frigida ed insipida, mentre il secondo è immerso in delizia super celestium jubilationum et jucunditatum. In ciò Olivi si avvicina, come gli succede anche nella lettura super Apocalipsi, al giubilo gioioso gioacchimitico, con la differenza che mentre questi sentimenti connotano per l'abate tutta la terza età, per l'Olivi rappresentano solo l'ultima parte del sesto stato, che è in primo luogo sofferenza e tribolazione, come Ronan Stelli ha già ampiamente dimostrato anche in base alle lettere ai principi angioini e da Corrado da Uffida. Passando dai commenti biblici alla questione, vorrei accennare solo rapidamente a quella sull'indulgenza della porziuncola, perché Olivi vi attribuisce a San Francesco una particolare funzione escatologica. Come Cristo alla fine dell'Antico Testamento, con la crocifissione ha redento l'umanità, così scrive, in inizio a persione sextis miaculis e sexti temporis ecclesiastici, aveva concesso a Francesco, segnato con le stimmate, la capacità di rinnovare redenzione, che coinvolge anche una riflessione molto impegnativa sulla vita religiosa dei propri tempi dell'Olivi. Francesco appare nella Questio come Maiulus Eusignifer Crucis Christi e viene caricato, proprio con il riferimento all'indulgenza, alla remissione delle pene, di una responsabilità che si perpetua fino alla fine dei tempi. Vorrei terminare questa parte della mia relazione con un appunto di Roma e Sede sull'escatologismo e francescanesimo estrapolato dalla lettura Super Apocalipsi, che avverte con molta precisione la funzione dei minori. Viris evangelicis, preconizzantibus iram et adventum iudicis in anu esse, cioè che è vicino l'ira e la venuta del giudice, multi reges et principes et divites et pauperes, quindi praticamente i vari strati della società, fuerunt vehemente perterriti. Quindi è chiara la funzione assegnata ai viri evangelici. Passerei a questo punto alla seconda parte della mia relazione, cioè di Ubertino da Casale. Ubertino da Casale, nel suo Arbor Vitae, inserisce nel quinto libro, come è ben noto, una parte della lettura Super Apocalipsi di Pietro di Giovanni Olivi, come Roman Selli ha puntualmente accertato nel suo lavoro del 65. Per quanto riguarda la differente visione dei due francescani, è lo stesso Manselli a precisarla. Ubertino è mosso essenzialmente da un'esigenza di polemica sulla realtà contemporanea e non dal desiderio di approfondimento filosofico e teologico della storia umana di cui era animato l'Olivi. Luca Podestà ha mostrato le variazioni che l'Arbor Vitae contiene rispetto alle sue fonti. Una recentissima pubblicazione, pur conoscendo i studi di Manselli e di Podestà, parla invece ed ampiamente del gioacchimismo di Ubertino. Riconfermo dunque ancora una volta che tutti i riferimenti a Gioacchino compresi nell'Arbor provengono dalla lettura Superapocalipsi ed ogni pensiero escatologico di Ubertino, prima di essere valorizzato dal punto di vista della migliore conoscenza, della sua comprensione ed interpretazione della storia, deve essere controllata sulla lettura. Vorrei qui ora occuparmi solo di due temi. Uno, che finora è sfuggito ai studiosi dell'Arbo, riguarda la clarificatio sexti status. L'altro rettifica una recente interpretazione di un tema scatologico che Ubertino ha accolto dall'Olivi. Nel terzo capitolo del libro quinto, intitolato Iesus Franciscum Generans, venivano colti solo i riferimenti alle fonti francescane ufficiali e non. In realtà, toccando il problema della clericalizzazione dell'ordine, Ubertino valorizza ancora una volta la lettura sull'Apocalisse dell'Olivi in un contesto personale. Per quanto riguarda Francesco stesso, precisa che questi non voleva mai essere promosso al sacerdozio per umiltà e ad confusione ambitionis future. Quanto ai frati, egli sapeva, scrive Ubertino, che usqua clarificationem sexti status, il governo delle anime sarebbe stato dato per viam prelationis, né sarebbe stato loro utile, cioè ai frati, dal punto di vista dello spirito della povertà. Questa affermazione comprende in realtà due tesi. La prima si riferisce ad un cambiamento che si sarebbe verificato nel sesto stato. Del diritto all'attività pastorale. Chi conosce la storia francescana sa che l'ultimo periodo è contrassegnato proprio dalla lotta tra i mendicanti in generale, ma particolarmente tra i francescani e il clero secolare. Entrambi trovano, e ciò ci interessa in questa sede, la loro spiegazione nel commento dell'Olivia alla lettera alla Chiesa di Filadelfia nella lettura Super Apocalipsi. Essendo i francescani, con il loro modo di vivere secondo il Vangelo, i nuovi apostoli, sono loro gli eletti del sesto stato e come tali Cristo promette all'angelo di Filadelfia che saranno le colonne del Tempio di Dio. Non è dunque, dice l'Olivia ai suoi confratelli, mediante la prelatura che i minori debbono giungere alla cura delle anime, ma attraverso la sequela del Vangelo. In questo contesto, la tesi escatologica della clarificatio sexti status tocca un'altra tematica, quella che questo stato, rispetto al terzo stato generale del mondo, habebit primatum duraturum usque ad finem seculi, e gli eletti di questo sesto stato non possono perdere il loro privilegio, perché è trasferito ad essi propter adulteria ecclesiae quinti status. Ferma restando quindi la struttura clericale anche in quest'età, la relativa funzione spetterà ormai a quelli che vivono la vita evangelica, realizzando lo spirito della povertà. In questa prospettiva di Ubertino emerge molto chiaramente anche una differenza ecclesiologica tra l'orientamento della comunità, cioè la clericalizzazione dell'ordine e la sua trasformazione secondo le necessità della Chiesa, e la tesi escatologica dei francescani, soprattutto dei spirituali del sesto stato, in cui è la Chiesa a dover adeguarsi alle esigenze originali di San Francesco. Il secondo tema su cui vorrei soffermarmi tratta di uno sviluppo dell'interpretazione di Francesco Alter Christus che, soprattutto alla fine del 200 e all'inizio del 300, ha trovato fortuna tra i minori, e il tema della resurrezione di San Francesco. All'argomento è dedicato uno studio ben documentato nel 1976 Roll Manselli, ma recentemente ne è stata messa in dubbio la validità come componente dell'immaginario dei spirituali, ricordando a proposito della citazione relativa di Ubertino che si tratta solo di una notizia proveniente da Corrado da Offida. Ora, il tema della resurrezione di San Francesco figura nella lettura Super Apocalipsim dell'Olivi, nel commento relativo all'angelo che porta il segno del Dio vivo, figura nella lettura Super Matteum dell'Olivi, immagina l'apertura dei sepolcri nel momento della morte di Cristo, e nella risposta che la comunità dà agli opuscoli di Ubertino nel 1310, addirittura tra gli argomenti che dovrebbero giustificare la condanna della dottrina Petri Johanni, cioè dell'Olivi, risposta pubblicata dal padre Delorme già nel 1945. La resurrezione di San Francesco si sarebbe inserita, da un lato, nel complesso dei dati che insistono sulla conformità, per così dire, biografica di Francesco a Cristo, dall'altro, nel particolare clima apocalittico diffuso tra i francescani, una pressura tentationis babilonici, in qua status ordinis eius et regula ipsius ad instar Christi crucifigetu. Una citazione simile ho letto già prima, ma sono da due fonti differenti. Olivi si ripete, non tanto quanto Gioacchino, ma qualche volta si ripete. Per quest'ultimo motivo, la resurrezione erit necessaria, tunc discipulis eius, confirmandis et informandis. Sicut Christi resurrectio fuit necessaria apostolis, confirmandis et informandis, super gubernazione future ecclesie. Con tali argomenti entriamo comunque in un ambito di problemi che oltrepassa i confini dell'Arbor Vitae di Ubertino, e ci introduce nella cerchia delle fonti francescane del tipo Verba Fratris Conradi e Legenda Vetus, che arrivano al fondo della coscienza della crisi francescana tra spirituali e comunità. E passo rapidissimamente ad Angelo Clareno. Tra questi tre francescani intervisti nella mia relazione, Angelo Clareno è colui che, pur adoperando molti degli argomenti e delle immagini dell'Olivi, resta ancorato alla problematica dell'ordine. La sua escatologia è e rimane solo francescana, perché in lui l'angoscia di aver sperimentato ed in prima persona la mancata comprensione nell'ordine del fondatore, la diversa concezione del francescanesimo nei suoi tempi rispetto ai inizi, supera tutte le altre preoccupazioni ecclesiologiche. Sotto questo aspetto, la sua visione dell'attesa della fine dei tempi è senza dubbio riduttiva. La sua autocoscienza cristiana si esaurisce nella convinzione imperturbabile di seguire nella intenzio di Francesco lo stesso Cristo. Il Francesco Alter Christus assume dunque per lui un valore che trasmette un messaggio diverso da quello presente nell'Olivia in Ubertino. Le stimmate confermano un'identità che obbliga all'imitazione, e chi non lo fa, pur appartenendo all'ordine dei minori, viene meno addirittura ad un'esperienza di Dio. La storia septem tribulationum ordinis minorum valette sotto questa angolazione per restituirne il pieno significato. Francesco è vir Dei, particolarmente diletto da Cristo, che lo attirava dietro di sé a sue perfezioni sectanda vestigia. Cristo abitava in lui seraficamente e parlo in lui cruciformamente. Erat enim ei Christus substantia, motus, sensus, lumen et vita et memoriae ipsius, intellectui et effectui igne impressus, cruciformiter unitus et arcane invisceratus. e totum quod facebat accipiebat a Christo, e secundum ipsum et propter ipsum disponebat et implebat. Il suo discorso è molto preciso e che rende superflua le spiegazioni. Sono pochi e generici i riferimenti all'Apocalisse. Cristo con la sua passione e morte ha aperto Librum Vitae, ha dato la chiave che schiude i segreti, ha reso possibile la divisione dei figli della luce e dei figli delle tenebre, dei cittadini del regno e dei cittadini di Babilonia. Nella sesta tribulazione parla del serpente che de cielo ruit infra sextum ecclesiae tempus multifarie multisque modis a propriis et extraneis expugnatur, sicut ecclesia infra tempus ident ab eodem serpente insultus et varia bella et gravia sustinet ab iis, qui se domesticos dicunt et carnaliter et superbe adversus eam et in ips regnare volum sive secularis Christiani sin sive clerici. Più ampiamente che l'Olivi, il Clarino si sofferma sul dono della stimmate a Francesco, insieme con la promessa di Cristo di non abbandonarlo. E tale promessa riguarda anche i frati che tramite Francesco aderivano a Cristo e quindi ne divenivano figli. Un interesse a parte rappresentano nella storia le varie visioni e detti attribuiti al santo e dei suoi compagni intimi di sogenannten franziskanischen Fälschungen, nei quali il tema escatologico viene presentato nella realtà della decadenza dell'ordine, come tra l'altro il sogno dell'angelo plurimetallico di cui parlava al primo giorno il professor Mitke, è la visione del lebroso fortemente piegato custodito da San Francesco, che sarebbe il simbolo e il segno dell'ordine. Il Clarine esprime poi quel che si potrebbe definire il paradosso della situazione francescana per lui. I frati semplici ed umili, che nell'escatologia dei spirituali sono destinati a salvare la Chiesa, dentro l'ordine vengono puniti, perseguitati, condannati, sacrificati. In conclusione, se nel francescanesimo di questi tre personaggi, il cui pensiero rapidissimamente passato in rassegna, è indubbia un'influenza diretta o indiretta delle idee gioachimitiche in un ricco complesso di varietà religiosa e culturale, mancano ancora ricerche e soprattutto edizioni di testi per poter precisare il reale spessore dell'incisività e delle tesi dell'abate calabrese sull'Olivi, Ubertino ed Angelo Clarino. Quindi questa mia relazione, invece di enumerarvi i risultati, vorrebbe essere anche un invito per la pubblicazione di questi testi. Grazie. Vielen Dank für diesen Bericht, der erneut deutlich macht, dass allen Erwartungen zum Trotz und trotz der unablässigen Editionen seit Jahrzehnten auch aller wichtigste Themen ihren Editor und aller wichtigste Texte ihren Editor noch nicht gefunden haben. Und wenn sie ihn gefunden haben, hat er dann die Aufgabe nicht gelöst. Wir haben vorgeführt bekommen aus den noch in Handschriften liegenden Schriften des Petrus Johannes Olivi, die, die Zeitbestimmungen, die Schemata, in denen er seine Zeit in der Kirchengeschichte und in der Weltgeschichte angesiedelt sieht. Sie haben dann eine Applikation dieser Entwürfe Olivis durch Ubertino von Casale auf einen Konflikt im Orden unmittelbar kurz angedeutet, um dann einen eher esoterischen Autor, Angelo Clareno, in seiner besonderen Situation mit seiner Abwandlung vorzuführen, wobei sich zeigte, dass also ein genuines Bedürfnis dieser franziskanischen Gruppen, die Abhängigkeit von Traditionen zwar nicht leugnet, aber sie doch genuin umformt. Wir haben gewiss einige Fragen zu diskutieren, aber wie es schon üblich geworden ist, darf ich Ihnen also erst einmal eine Viertelstunde Pause gönnen. Wir danken sehr für das Referat. Gut, wir wenden uns wieder dem 13. und 14. Jahrhundert zu. Wir haben die Relation noch im Gedächtnis. Wir erinnern uns an diese farbige Situation und an die farbigen Figuren Petrus Johannes Olivi, Ubertino von Casale und Angelo Clareno. Ich möchte nur technisch folgenden Vorschlag machen. Wir haben uns gestern Abend und heute früh nochmal überlegt, dass es vielleicht doch nicht so günstig ist, wenn, und vor allem heute Vormittag ja auch erlebt, dass eine lebhafte Diskussion zwar sehr erfreulich ist, dass es aber unerfreulich ist, wenn die Studenti von den Studiosi ganz in den Hintergrund gedrängt werden. Und deswegen schlage ich Ihnen vor, dass wir es jetzt einfach technisch so versuchen, dass wir sagen, wir wollen erst einmal den Studenti, das heißt den Borsisti und den anderen studentischen Gästen hier das Feuer freigeben und bitten die Studiosi noch etwas um Zurückhaltung. Und ich schärfe ebenso noch erneut auch technisch ein, was Herr Capitani heute Vormittag ja auch schon gesagt hat, dass wir uns darum, dass die Studiosi dann, wenn sie eingreifen, sich darum bemühen sollten, ihren Beitrag zuzuspitzen und abzukürzen. Nicht? Gut, also in diesem Sinne darf ich erstmal die Studenti bitten, hier ihre Fragen zu stellen, die durchaus, und das sei noch zusätzlich gesagt, sich nicht nur auf die in der Relation vorgetragenen Thesen und Ansichten der drei Autoren beschränken müssen. Frau Pastor ist so vorzüglich, als so vorzügliche Kennerin aller Probleme der franziskanischen Geschichte ausgewiesen, dass sie auch zu allen Fragen zur Geschichte des Franziskanerordens in dieser Zeit voll Auskunft geben kann, sodass sie in ihren Fragen nicht beschränkt sind auf die in der Relation selbst vorgetragenen Thesen. Es sollte natürlich mit der Relation zusammenhängen, was Sie fragen, das ist klar, aber Sie dürfen auch darüber hinausgreifen, das wollte ich gesagt haben. Bitte sehr. Ja, jetzt muss man natürlich erstmal Geduld haben, bis die Staupause überwunden ist, nicht? Das ist klar. Wer möchte das Mikrofon in die Hand nehmen? Ja. Einer muss mit einer dummen Frage anfangen, dann mag ich. Helmut Flachenegger, weiß ich. Mich würde interessieren, in welchem Zusammenhang die Werke, die Sie geschildert haben, zur aktuellen Situation im Orden selbst und auch zur aktuellen Situation dieser Persönlichkeiten, Olivi und Ubertino da Casale, stehen. Gibt's da, kann man da irgendwelchen sagen, in welchen Phasen die Werke geschrieben sind und in welcher Situation die Personen auch standen? Sì, dunque, allora cominciamo, posso rispondere in italiano? Sì. Cominciamo forse con un fatto negativo che per quanto riguarda la cronologia, parlo molto lentamente, la cronologia delle opere dell'Olivi c'è una grande incertezza. Quindi riferirsi concretamente al periodo fiorentino oppure al periodo successivo è un po' difficile. Oggi come oggi sembra che, questo risulta dai riferimenti del testo, sia il commento a Matteo, quello più antico, quindi cominciamo con il commento di Matteo dal 1279 e si va avanti fino alla morte, l'ultimo lavoro, la postilla dell'Apocalisse. In quale rapporto c'è con la storia francescana? È strettissimo rapporto. In strettissimo rapporto direi in tre momenti differenti, perché Olivia appartiene alla storia dell'ordine della fine del 200, Ubertino scrive nel 1305 e il professor Masselli ha datato la storia del Clareno al 1326. Quindi sono, si può dire senz'altro, tre momenti critici del francescanesimo. Allora, per quanto riguarda Olivi, in fondo tutto che abbiamo sentito questa mattina, influenza politica e Federico II anticristo, influenza di avvenimenti esterni, è venuto già a cessare. L'ordine è in una crisi all'interno, è una crisi all'interno in cui Olivi si prefigge, si può dire così, questo scopo: di spiegare la necessità della tribolazione, della sofferenza, questo rivolgendo ai suoi confratelli spirituali che soffrono, perché, come scrive lui chiaramente nella lettera ai principi angioini, pubblicati dall'Erle, Für Literatur und Kirchengeschichte, e ripubblicato da Masselli nei Cahiers di Fanjou, perché solo a prezzo di sofferenze si può ottenere il giubilo e la felicità, cioè finché non muore il seme non può nascere una nuova vita. Quindi Olivi, da un lato, in questi commenti alla Bibbia, io poi non ho parlato delle questioni della povertà evangelica e della perfezione evangelica, parla inserito completamente nella situazione dell'ordine dei suoi tempi. Da un lato presenta Francesco e riconferma questa sua funzione ecclesiologica e dall'altro lato invita i confratelli a soffrire, perché Cristo ha sofferto, Francesco ha sofferto, perché solo attraverso la sofferenza si può arrivare alla felicità. Ma oltre a questo c'è anche un altro scopo. In realtà direi tutto il discorso che io ho cercato di mostrarvi dalle varie opere puntava in questa direzione: spiegare il significato dell'ordine francescano ormai dall'interno dell'ordine francescano. Cioè Francesco non è più un personaggio come gli altri fondatori dell'ordine, ma Francesco ha un concreto ruolo escatologico. Olivi è il personaggio che, quando i suoi confratelli si rivolgono contro Bonifacio VIII perché ha fatto deporre Celestino V, non permette loro, anzi cerca di ostacolare che si rivolgano contro il pontefice, quindi prende una posizione di calmare, di tranquillizzare i suoi confratelli e di dare un significato alle loro sofferenze, da non dimenticare che lui stesso è perseguitato, cioè lui stesso subisce varie sentenze all'interno dell'ordine, tra l'altro deve bruciare questa sua opera sulla Madonna. Ubertino da Casale vive nel 1305 a Laverna e si trova in una situazione particolare, che mentre Olivi vuole conservare il rispetto verso i papi e verso il papato, Ubertino, nel prendere i riferimenti dalla postilla all'Apocalisse al papato, dà un nome a tutti questi anticristi, cioè Bonifacio VIII è anticristo, Benedetto XI è anticristo, addirittura Clemente V è anticristo, perché alla sua elezione non prendono parte i cardinali Colonna. Quindi questo suo arbor vitae particolarmente nel quinto libro, cambia completamente la funzione che Olivi ha assegnato a questa lettura, Super Apocalipsi, e ne vale come un'arma di combattimento per il momento teorico, però è Ubertino da Casale, è quello che poi scriverà i papi, i suoi famosi testi, le lettere, che poi le dichiarazioni vengono presi in tale considerazione che abbiamo le relative risposte da parte del papato. Clarino, non dimentichiamo mai, è il personaggio che è perseguitato sin dalla fine del 200 e che a un certo momento lascia l'ordine e chiede da Celestino V di poter aderire, cioè chiede l'aiuto di Celestino V, e Celestino V fonda questo ordine che ha o questa congregazione che ha purtroppo brevissima vita, dei poveri eremiti di Papa Celestino, di cui è, diventa membro Clarino, naturalmente Bonifacio VIII, cassando, togliendo il valore alle decisioni di Celestino V, fa scomparire anche quest'ordine. Angelo Clarino è quello che è già stato in esilio in Grecia e in Armenia. Angelo Clarino è quello che, godendo della protezione del cardinale Napoleone Orsini, si trasferisce nella corte di Avignon e cerca in qualche modo qualche soluzione alla sua vita. Secondo alcuni, ma adesso la questione è messa in dubbio, sarebbe divenuto benedettino sia lui sia Ubertino di Casale. Secondo le ultimissime ricerche, questa affermazione non corrisponderebbe al vero, ma continuerebbe a vivere da eremita, come fanno tutti i francescani spirituali italiani dopo la condanna di Giovanni XXII, e da questo suo gruppo che vive attorno a lui come eremiti sarebbero poi nati o sviluppati i clareniani fraticelli. Ma siamo in un momento dopo la condanna di Giovanni XXII, quindi direi che tutti questi lavori di cui io parlavo hanno un contatto strettissimo con le vicende dell'ordine e del rapporto tra l'ordine e il papato del loro tempo. Quello che viene a mancare rispetto a quello che diceva il professor Berg questa mattina è l'influenza politica, che poi invece tornerà con Ludovico il Bavaro, ma siamo molto più avanti nel tempo. Darf noch mal kurz in Deutschen wiedergeben, damit meine ich kann nicht alles wiederholen, aber wenigstens die Grundzüge versuchen zu sagen, und Frau Pastor kann mich ja ergänzen, Sie können das ja gut verstehen. Die Chronologie ist so wie oft in diesen Zeiten natürlich unsicher. Und man kann mit Gewissheit keine pünktliche Liste geben. Bei Olivi ist der Reichtum der Überlieferung groß und die Armut unserer Kenntnisse desgleichen. Wir wissen eigentlich nur mit einiger Sicherheit, dass die Lektura zu Matthäus die älteste Schrift ist. Und etwa in 1269 datiert werden kann, am Anfang seiner schriftstellerischen Karriere, die Lectura Super Apocalypsim ist eine der letzten Schriften, also am Ende des Jahrhunderts. Die relative Chronologie im Einzelnen würde nun hier zu weit führen. Insgesamt kann man sagen, dass die drei Autoren, die behandelt worden sind, in drei Phasen der franziskanischen Geschichte zuzuordnen sind. Olivi dem Ende des 13. Jahrhunderts, Ubertino etwa 1305 mit seinem Arbor Vitae Crucifixe Jesus und Angelo mit seinen Historia Septem Tribulationum 1326, sodass sie also hier die Stufen der Ordensgeschichte voll rekapitulieren können. Diese Verbindung zu der Situation des Ordens ist hier freilich im Unterschied zu dem, was Herr Berg heute früh erzählt hat, weniger durch politische Ereignisse bestimmt. Darüber lässt sich vielleicht noch diskutieren, aber das ist erstmal die These. Näher auf der Hand liegen die Einflüsse, die aus den Krisen des Ordens selber kommen. Diese Krisen des Ordens sind freilich in unterschiedlicher Haltung von den verschiedenen Autoren gesehen worden und beantwortet worden. Olivi hat, wie wir spätestens seit den Forschungen von Franz Erle wissen, nicht die Absicht gehabt, die Krisen des Ordens anzuschärfen. Er versuchte, seine Anhänger zu dem Leiden des Gerechten anzuleiten und darin den Trost zu sehen, dass der Gerechte leiden muss, um zur Herrlichkeit Gottes einzugehen, und dies sich selbst und seinen Anhängern immer wieder deutlich zu machen versucht, in all seinen Schriften und auch in seinen politischen Äußerungen, zu denen er gebeten wurde. Er präsentiert Franziskus sowohl als eben auch Christus als diejenigen, die leiden mussten, und sieht darin ihre wesentliche Vorbildfunktion für jeden Franziskaner. Er hat aber darüber hinaus auch, neben diesem allgemeinen Leidensbereitschaft und dem passiven Widerstand gegen die Zumutungen der Gegenwart, hat diese Leidensbereitschaft fundiert und grundiert mit einer Betonung der eschatologischen Rolle des Franziskus und seines Ordens. Ubertino dagegen 1305 in Alverna, als er den Arbor Vitae Crucifixae schreibt, ist der Führer oder ist der Vertreter einer Partei des Ordens. Er wird ja wenige Jahre später in Avignon diese Gruppe im Orden in einem päpstlichen Prozess vertreten. Er ist anders als Ubertino nicht auf rein passive Widerstandshandlungen festgelegt, sondern versucht mit den Argumenten, die er teils wörtlich aus Petrus Johannes Olivi übernimmt, seine Freunde zum Widerstand gegen falsche Behandlung zu einem Protest dagegen zu ermutigen, hat also eine selbst bei gleicher Formulierung andere Tendenzen, was sich besonders deutlich zeigen lässt in der Identifikation des Antichrist mit dem Papst. Während Olivi immer für den Gehorsam gegen die offizielle Amtskirche eintritt, nennt Ubertino Bonifaz offen als Antichrist und seinen Nachfolger eben desgleichen. Angelo Clareno hat eine wieder andere Position. Ich meine, noch nur um diesen Ubertino abzuschließen. Ubertino wird ja dann später in den 20er Jahren den Orden verlassen und vom Papst die Erlaubnis bekommen, dem Benediktinerorden beizutreten. Er hat also diesen internen Kampf im Orden, um den Orden, nicht durchhalten können. Angelo Clareno hatte schon früher die Situation, dass er aus dem Orden herausgedrängt wurde. Nach Verfolgungen seiner Gruppen hatte er 1294 von Celestin V. die Erlaubnis dieser Gründung der Pauperes Eremitae Patris der Domini Celestini erhalten, aber diese Erlaubnis ist, wie viele andere Verfügungen des Papstes Celestin V., von dem Nachfolger Bonifaz VIII. Ein halbes Jahr später, im April 1295, wieder aufgehoben worden, mit einem Federstrich. Angelo war dann gezwungen, ins Exil zu gehen mit seinen Brüdern nach Griechenland und Armenien. Die Verfolgungen hörten nicht auf. Er starb als Verfolgter, als von seinem Orden verfolgter Mann, der sich im Schutz auch wiederum eines Benediktinerabtes und eines Kardinals in Mittelitalien versteckte. Das war, wenn ich richtig verstanden habe, im Wesentlichen die Antwort, die Sie gegeben haben. Ja, wir wollten damit aber nicht alles geklärt haben, nicht? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Herr Capitani, bitte. No, il Mikrofon. Also das heißt aber auch noch nicht, wenn wir jetzt übergehen, auch dass die Studiosi sprechen dürfen, dass Studenten in Zukunft den Mund halten müssen. Nicht? Also das möchte ich Sie doch bitte auch ermutigen, sich nicht den Mund verbieten zu lassen. Nicht? Io non ho nessuna obiezione da fare, ho molte curiosità, questo è un po' il mio temperamento. Farò una serie più possibile concisa di domande a Edith Pastor, partendo da quella appunto curiosità di cui facevo cenno nelle brevi parole della introduzione ieri mattina. Dicevo che il nostro tema proponeva, insieme con la specificazione dei vari modi in cui la fine dei tempi si sarebbe annunziata, però il nostro tema proponeva anche implicitamente, poi forse non tanto implicitamente, anche un altro problema: che fare della società? Perché questa società non va. Ma allora non basta riconoscerne gli aspetti negativi e vederne i segni indubbi di disfacimento. Allora, in relazione a questa curiosità, chiedo, anche riferendomi a quanto è emerso questa mattina, in seguito alla relazione del professor Berg, da una domanda formulata da Roberto Rusconi, domanda alla quale non è stata data risposta, e cioè la mera occasionalità dell'incontro tra giacobinismo e francescanesimo, almeno sino al periodo che tu hai affrontato. Beh, per quello che riguarda la tua posizione, se io non interpreto male anche quello che ho sentito quest'oggi, tu hai già polemizzato qualche tempo fa con Brian Tierney a proposito di una presentazione del gioacchinismo francescano come conseguenza del mancato ordinamento disciplinare all'interno dell'ordine. E con lo stesso Tierney hai polemizzato quando, a proposito del trattato sulla inerrabilità del Papa, scritto da Olivi, Tierney lo vedeva come momento contingente, di una preoccupazione contingente dell'Olivi, che si sarebbe preoccupato, nel caso fosse stato possibile cassare un provvedimento precedente, di quelle che sarebbero state le conseguenze a proposito della exit Pisani, e tu invece hai detto no. Allora, se io ho inteso bene, tutto questo fa sì che il gioacchinismo risponda a una esigenza variamente accentuata a seconda dei momenti politici, e quindi variamente anche recepito, adattato, interpretato in maniera parziale, quindi rimane valido quello che ha detto Berg, ma il gioacchinismo risponde a una profonda esigenza che è quella che Manselli chiamava la dimensione soteriologica del francescanesimo. Ora, la dimensione soteriologica del francescanesimo fa del recepimento del gioacchinismo qualcosa di molto propositivo, che va al di là del gioacchinismo. Perché? Ma perché il francescanesimo è esso stesso parte della società, se addirittura non è una società esso stesso. E quindi questo potrebbe anche dare un'idea del perché nel francescanesimo l'eredità o la interpretazione, meglio, del gioacchinismo abbia avuto gli esiti che ha avuto. Chiedo, tutto questo, dimensione soteriologica, accoglimento del gioacchinismo nella dimensione soteriologica, è da collegare con quell'elemento fondamentale della cultura francescana che è la assoluta affermazione dell'assoluto primato della libertà e della realizzazione della libertà come atto esterno, come manifestazione del volontarismo che presiede, anzi connota, a differenza della posizione antropologica aristotelico-tomistica, che connota il francescanesimo. E così lo chiedo. Chiedo ancora, se tutte queste cose sono connesse nell'ordine che io ho detto, è possibile nella dimensione escatologica di Olivi, ma forse più ancora di Ubertino, vedere una proposta da realizzare, o perlomeno una proposta di disegno di società futura? Tutto quanto viene scritto, soprattutto da Ubertino, circa lo status perfectionis exercende e lo status perfectionis acquirende, in connessione con la disputa, sulla quale certo non credo che sia il caso di trattenersi, ma lo dico proprio per tentare di dimostrare che tutti gli elementi della grande disputa francescana si connettono: libertà, volontarismo, gioacchinismo, escatologia, ecclesiologia, questione della povertà. Allora chiedo, se non ho sentito male, per Ubertino tu hai distinto due momenti, un momento in cui la Chiesa non si nega ma deve essere rigenerata, è un momento in cui invece questa Chiesa deve adeguarsi alla spiritualità. Ecco, questi sono due momenti cronologici successivi, possono anche coesistere. Ecco, non ho altro. Io comincerei con dire che tu hai costruito quel ponte di cui questa mattina si è lamentato un po' la mancanza, tra il periodo che termina con 1266 e quello che viene dopo. Ti ringrazio per queste tue domande, perché dai occasione un po' di approfondire questo problema. Indubbiamente hai perfettamente ragione per questa libertà assoluta, per questa necessità che il gioacchinismo entri nell'ordine francescano, e che dobbiamo aggiungere a quei motivi politici che molto giustamente il professor Berg questa mattina ha sottolineato, più i moventi religiosi, stimmate di Francesco. Però indubbiamente quello che tu adesso qui hai rilevato sulla libertà assoluta, su questa posizione del francescanesimo, è quello che ha il posto decisivo. Poi hai richiamato l'attenzione su un fatto molto importante, questa differenziazione tra Olivier e Ubertino. Questi due momenti che tu hai distinto nell'Ubertino, tra un adeguarsi alla Chiesa e tra la necessità che la Chiesa si adegui alla necessità dell'ordine, direi che corrisponde non tanto a due momenti cronologicamente differenti, quanto a due punti di vista, a due aspetti in fondo nella medesima situazione, perché 10 Concilio di Vienna, i suoi scritti che rivolge al papato, la sua situazione già è completamente diversa, dove poi fa anche la critica molto più estesa, non restando più nell'ambito gioacchimitico, ma parla contro l'urbanizzazione di questi edifici molto grandi che l'ordine comincia a costruire, di queste chiese che non è più a margine nel suburbio, ma è dentro città. Quindi siamo, direi, davanti a problemi differenti, dove l'ordine viene messo in causa anche come facente parte della società. Quello che tu hai detto molto bene, che non solo faceva parte della società, ma era una società in se stesso, però questo significava due necessità: di vivere come società ordinata, quindi di eliminare all'interno tutte queste contraddizioni che man mano diventavano sempre più numerose, e dall'altro lato di inserirsi in una società già costruita, siamo a fine 200, all'inizio del 300, e inserirsi come altri ordini mendicanti che già si trovavano nella città, partecipavano nella città, o inserirsi restando fedele all'intenzio di Francesco. Disinserirsi, restando ai margini della città e continuando a partecipare nella vita degli emarginati. E quindi assumendo un atteggiamento di contestazione. Come chiaramente. Carità, non come volontà almeno originale di contestare la Chiesa, ma come logica interna di quella Chiesa che permette, sostiene e approva questo cambiamento. C'è poi questo grosso problema, che è il problema del tempo dell'Olivi, che è il problema dell'inserimento dell'ordine clericalizzato in un'organizzazione del clero secolare, cioè queste liti, a questo accenna Olivi, no? Quando pone il problema della prelatura, no, Ubertino, quando pone il problema della prelatura, cioè questi liti eterni per le decime che non vanno pagate più al clero secolare, le spese per i funerali che vanno sempre più in favore dei mendicanti. E c'è un altro problema, che è il problema culturale, non solo religioso, questo ascolto della predicazione francescana che attira molto di più come la predicazione contemporanea del clero secolare. Quindi c'è uno scarto tra il clero secolare e i francescani, il che a sua volta conduce ad un continuo litigio. C'è poi, se vogliamo allargare la questione, c'è anche il problema delle donne, questa cura pastorale delle donne che i frati cominciano a non fare più. Siamo ancora prima del pericoloso, quindi ancora teoricamente potrebbero fare, e fanno un po' sempre meno. Si sarebbe potuto parlare della stessa Santa Chiara, in realtà nella cui vita questo problema che interessa l'ordine con la povertà si riproduce tal quale, no? Quando riceva da Papa il permesso pochi mesi dopo di morire. Ci sono le altre, come le chiamiamo, gli altri monasteri, gli altri raggruppamenti, le altre comunità femminili che non fanno più parte di nessun ordine, ma di cui il professor Marcelli diceva che questi sono in realtà quelli che seguono l'esempio di San Francesco. Quindi la questione abbraccia, direi, tutta la società. E vorrei dire un'ultima Scusa. Cosa? È sempre una domanda. Certo. Quell'evento, così variamente, ma di solito negativamente giudicato, che è la clericalizzazione delle donne, no? Ha però un risvolto, collega direttamente l'ordine con il Papa. No, non credo, no. Collega, ma che? Collega direttamente l'ordine con il Papa o condiziona l'ordine entro una gerarchia? Guarda, il rapporto già tra Francesco e il papato era strettissimo, no, quindi sì, appunto, quindi sì. Dico la clericalizzazione come tale nel rapporto frati e papato non porta una differenza. Certo, porta una differenza in quanto mette a disposizione del papato un gruppo di persone che il Papa può inviare in qualsiasi diocesi, volendo anche in Sicilia, allora, quindi del vescovo diocesano, certo. Na, der Barocco eher. Also ich glaube, die Frage der, des Verhältnisses zum Papsttum, ist, da würde ich auch Frau Pastor völlig recht geben, schon Franziskus musste ja den Gehorsam versprechen und die Brüder müssten ihm Gehorsam versprechen, schon bei der sogenannten Protoregel. Also da hat sich im Grunde eher was geändert, weil nämlich ein Priester gegenüber dem Papst hinsichtlich seiner Potestas Ordinis ja viel unabhängiger ist als ein Laie. Nicht? Also da würde ich eher umgekehrt glauben, dass da keine stärkere Einbindung erfolgt ist durch die Klerikalisation. Nur die und die Frage des Verhältnisses zum Weltklerus und zu den Bischöfen, die ist sozusagen ein Problem, das die ganze Zeit über, das ist ja nicht, das entsteht ja nicht erst in der Zeit von Petrus Johannes Olivi, das ist ja älter. Diese Frage der Differenz, und die hört auch nicht auf am Anfang des 14. Jahrhunderts, die geht ja bis in die Zeit der Spaltung des Ordens in drei Orden weiter. Also diese Differenzen zu den Konkurrenten aus dem Klerus und die Differenzen mit den Ortsbischöfen, sofern die also nicht wie der Bischof von Assisi gleich begeistert waren, und das war ja keineswegs jeder Bischof, die sind, wenn man so will, eingeboren in die Struktur eines exempten Ordens, und später dann im 15. Jahrhundert werden ja alle exempten Orden dann auch schon die wieder zurückgreifend auch die Zisterzienser angegriffen schon im 14. Jahrhundert auf den Konzilien. Also da glaube ich, da sollte man die Konflikte nicht dramatisieren. Sie sind dramatisch genug, aber wir brauchen sie nicht jetzt noch auf ein bestimmtes Datum zu radizieren. Ich glaube, sie sind doch in diesem Fall strukturell bedingt und nicht an einer bestimmten Entscheidung festzumachen. Però sì, io posso aggiungere ancora qualcosa. È interessante in questo proposito l'esame delle fonti. Mentre tu vedi le fonti che nascono dopo il 66, proprio dal divieto di leggere altro che la biografia di Bonaventura, trovi, senza senso polemico, trovi rappresentato Francesco, perché si applica tutto a Francesco, no? Trovi rappresentato Francesco davanti ad una chiesa, mentre predica davanti a una chiesa, non so, c'è il famoso, la famosa pericope di Terni, che il vescovo è accanto a lui, ma davanti al vescovo, no, davanti alla chiesa, non dentro la chiesa. Bene, questo è un motivo, è un tema di questo tipo di fonte. Se tu vedi gli altri tipi di fonti che sono dell'inizio del 300, i Verba Fratis Corradi oppure la Leggenda Vetus, trovi già un altro argomento, trovi già messa, soprattutto Corrado, messa in dubbio se il francescano deve obbedire al Papa in ogni caso come prescrive la regola, o deve obbedire solo se il Papa è vero Papa. Quindi per il Vescovo non c'è il problema, perché non riconosce che debbono servire nelle chiese come clero secolare. Molto più diretto con il Papa. No, chiedo questo. Sì, no, sto pensando sopra, sì. Per il quale il problema ecclesiologico si fa nella seconda metà del secolo XIII, così urgente e così fatalmente coinvolgente tutti gli aspetti dell'autorità pontificia. Sì, Ovidio, poi succede un fatto importante di cui non abbiamo parlato. Non è solo una questione tra i frati e i vescovi. I frati cominciano ad essere vescovi. Certo. E quindi entrano nella gerarchia, Bonaventura cardinale e Papa Niccolò IV. Quindi la situazione è cambiata, ormai sono loro presenti dentro la gerarchia. Impegna ecclesiologicamente, almeno in certi momenti, forse anche di più, è un'impressione. Sì, ma ti ringrazio, sì. Lambertini? Roberto Lambertini, ho una domanda molto breve rispetto a quanto abbiamo detto fino ad ora. Come si inserisce l'ultimo Ubertino, cioè quello del reducendo igitur ad brevitatem, per intenderci, cioè dove è andata a finire la carica escatologica in queste ultime prese di posizione di Ubertino? Senta, lei pone un problema che è il problema dell'Ubertino. Posso però forse risponderle indirettamente. Si occupa molto adesso in Germania, per opera di questo padre Schlageter, della questione ottava dell'Olivi. Ora, la questione dell'ottava, la questione ottava dell'Olivi, lo Schlageter non se n'è accorto, non diteli. Fu preso anche da Ubertino, e nella versione più lunga della questione sulla povertà sono trascritte, come ha fatto con la lettura Super Apocalipsis, anche gran parte di questa questione ottava. Se Dio ci aiuta, Charles Davis lo pubblicherà. E succede un fatto di estremo interesse: mentre dal quinto libro della lettura Super Apocalipsis ha preso le parti geochimicamente più impegnate, se si può esprimersi così, della questione ottava, in cui il Burr ha esaminato che un solo percentuale riguarda l'Apocalisse, ma il problema non era questo del percentuale, ma in cui nella questione ottava sono contenute parti escatologiche prese dalla figura dell'Apocalisse con le spiegazioni, come ha fatto Livi, Ubertino li salta. Quindi fa un'operazione contraria a quella che ha fatto prima, riproduce i problemi relativi, trascrive, non riproduce, trascrive, copia, prende le parti relative alla povertà, l'usus pauper, e lascia fuori il giochimismo. Però che fine ha fatto alla fine Ubertino? Questa tesi che fosse diventato benedettino lascia a desiderare, cioè noi in realtà non sappiamo, li possiamo seguire fino ad un certo punto, ma proprio per l'opera di Davis sappiamo che perfino questa, c'è anche il nome del monastero benedettino di cui Callea e gli altri precedenti biografi l'hanno messo in contatto, ma in realtà non sappiamo come terminavano la loro vita. L'anno scorso abbiamo avuto questo convegno ad Ascoli Piceno, lì si è parlato del legame tra Clareno, Clareniani e i fraticelli Clareniani, ma di Ubertino no. Certo resta il fatto che quando una seconda volta fa l'operazione di trascrivere pezzi da Olivi, non si vale più delle parti escatologiche. Capite? Wollten Sie noch was? No, lui è italiano. Yeah. Bitte? Mi chiedevo allora se questo non va nella direzione della distinzione che lei aveva operato tra Olivi e Ubertino. In Olivi una riflessione scatologica a un livello più profondo, in Ubertino un uso di un certo strumento polemico. Senz'altro può essere, questo non l'ho detto io, ha detto il professor Manzelli, ma è vero, sì, senz'altro strumentalizzato, però resta il fatto che per esempio lascia fuori non solo la parte apocalittica, ma la stessa funzione scatologica di San Francesco, dove lei nella questione ottava arriva a vedere il significato di San Francesco, nel testo relativo dell'Ubertino c'è un salto, ecco. comunque d'accordo, va in quella direzione di convincimento sincero e strumentalizzazione. Grazie. Ich wollte noch mal auf den Ponte zurückkommen, der so schmerzlich vermisst wurde und der natürlich nicht nur der Ponte ist, sondern der das Problem des franziskanischen 13. Jahrhunderts insgesamt ist. Vielleicht sollte man doch darauf hinweisen, dass Olivi sein, und das wurde ja in der Relation auch sehr deutlich, dass Olivi die Betonung des Usus Pauper so stark hervorkehrt, ja nicht ohne jeden Grund, sondern dass diese Diskussion um den Usus Pauper die Krise des Ordens in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts charakterisiert. Nun ist dieser Usus Pauper ja eben eine Formulierung, die von Olivi zugespitzt worden ist, aber nicht schlechterdings erfunden wurde, sondern die er übernimmt aus der Kompromissformel, die Bonaventura gefunden hatte, ein Usus Arctus, den die Franziskaner treiben sollten. Die Auszeichnung des Usus Pauper durch Olivi als eschatologische Qualität eigentlich, so muss man ja fast sagen, des Ordens, die ist natürlich eine Radikalisierung. Bonaventura hat eigentlich sehr viel weniger im Sinn gehabt, als er den Usus Arctus seinem Orden auferlegte. Olivi greift nach diesem Begriff, radikalisiert ihn vom Usus Arctus, also vom gedrängten Gebrauch, zum Usus Pauper, als dem ausgezeichneten Gebrauch der Paupertas Evangelica, und qualifiziert ihn eschatologisch und zugleich stützt er sich darauf, dass mit seiner Mitwirkung und mit der Mitwirkung anderer Ordensmitglieder eben ex ivi von dem Papst geschildert war. Das hatten Sie ja auch mit dem Zitat von Tierney hier nochmal zitiert. Diese Diskussion um den Usus Pauper ist also nicht sozusagen franziskanische Ordensgeschichte, die mit eschatologischen Problemen des 13. Jahrhunderts gar nichts zu tun hätte, sondern sie ist die Verstrickung und die Verknäuelung am Ende des 13. Jahrhunderts, diese Diskussion beweist die Verknäuelung der Probleme am Ende des 13. Jahrhunderts, dass man eben mit nur der Fragestellung nach eschatologischen Vorstellungen die Gegenwart und Gegenwärtigkeit und drängende quälende Präsenz von eschatologischer Erwartung nicht fassen kann, wenn man diese ganzen inneren Krisen des Ordens, der sich nun hier nach dem Wege, den Herr Berg heute Vormittag beschrieben hat, so stark eingelassen hatte mit einer bestimmten Tradition eschatologischer Gegenwartsbestimmung, dass also auch dieses Thema mit in die Debatte gehört, und Frau Pastor hat es ja auch sehr deutlich, ich glaube zwei oder dreimal in ihrer Relation genannt, dass dieser Usus Pauper von Olivi immer wieder gefordert und natürlich von Ubertino verteidigt und von Angelo Clareno als Voraussetzung einer franziskanischen Existenz begriffen worden ist. Das scheint mir auch ein Teil des Ponte zu sein. Wenn man noch dazu sagt, dass die Frage der politischen Einflüsse am Ende des 13. Jahrhunderts ja gar nicht mehr, jedenfalls in ganz anderer Weise stellen musste als am Beginn, als in der ersten Hälfte. Es gab seit dem Tode Friedrichs II. Spätestens, wenn nicht schon seit seiner Absetzung 1245, keinen weltliche Macht von universalem Anspruch. Es gab natürlich den französischen König, es gab den König von des Regnum Sicilie, und es gab, das war ja eine Kandidatur, die ja erst umkämpft war, wer denn das sein durfte. Und es gab verschiedene andere Könige und Herrscher, aber es gab keinen Kaiser, der den Anspruch hätte erheben können, über die Christianitas zu bestimmen. Und das dauerte ja dann noch bis 1313, bis wieder einer war. Insofern musste man sich ja mit dem Papst beschäftigen, wenn man eine universale Figur suchte. Das, glaube ich, ist auch ein Punkt, der so mit Disziplin und Klerikertum nichts zu tun hat, der aber mit der politischen Struktur dieser Gesellschaft nach dem Ende des staufischen Kaisertums zu tun hat. Mikrofon. Spiegazioni. Volevo fare una domanda. Primo, ritieni, o il professor Metti che ritiene, che Olivi abbia avuto parte nella stesura della Exit? Exit, questo è sicuro. Questo direi che sì. È abbastanza certo. Sì, nella Exit, se non ricordo male, si parla di usus facti. No, ci sono altre cose. Usus facti? Facti. Sì, naturalmente. Sì. Anche. Ecco. A un certo usus facti però sarà inteso da Olivi perlomeno e da Ubertino come quello che poi è l'usus pauper, no? No? Der usus, non so, lo chiedo, ma su questo forse... Nein. Der usus facti ist die theoretische Voraussetzung dafür, dass es einen usus pauper geben kann, denn nur wenn es einen usus facti gibt, der ohne jede Rechtsinstitutionen möglich ist, nur dann kann ein Usus Pauper existieren, denn dann ist das auch, das ist ja noch später im 14. Jahrhundert die Diskussion mit Johannes dem 22., der eben sagt, ein Usus Simplex Usus Facti ist gar nicht möglich, weil ein Usus ohne Jus nicht möglich ist. Das ist, insofern hängt es zusammen mit dem Usus Pauper, ist aber, wenn man so will, eine theoretische Voraussetzung der Konstruktion der Möglichkeit einer der rechtlichen Möglichkeit eines Usus Pauper und hat mit der eschatologischen Valenz dieser Forderung zunächst nichts zu tun, sondern nur mit der, wenn Sie so wollen, ontologischen Ermöglichung einer solchen Haltung. La lite teoretica sulla povertà. Sì. Ecco, i due termini non sono assolutamente equivalenti. No. No. Mi chiedo allora, pensando a questo mutamento, in cui l'usus pauper diventa la scelta migliore rispetto all'usus facti, e se questo fatto non indichi una radicalizzazione, ma il fatto che una scelta corrispondente a un modo di essere del francescanesimo, in quel momento era fatta in omaggio a una fedeltà, cioè l'usus pauper dell'inizio del 300 uguale all'usus facti della Exit Seminat, diventa una, o non diventa, lo chiedo, sì, una prova di radicalizzazione. Senti, c'è cioè, l'interpretazione dell'Exit Seminat, è questo che mi interessa. C'è fedeltà e in quale senso? E perché c'è fedeltà o perché non c'è fedeltà? Ve lo chiedo. Dunque, io penso che prima di tutto, se già ci spostiamo a livello di storia, francescana, no. Volevo avvertirti che quando c'è questa lite teoretica di povertate, allora in fondo è la comunità, è un vital, il cardinale Vital di Fort che fa parte della comunità, non è più una questione come Olivi, Ubertino eccetera, ma è la comunità che difende la povertà. Perché? Perché c'era nel frattempo quest'idea geniale, scusatemi, di Giovanni XXII che dice che non è vero che Cristo gli apostoli, anzi che è eretico affermare che Cristo gli apostoli, quindi hai ragione che c'è un cambiamento, un mutamento radicale perché si è tolto il fondo, la base. Sì. Darf ich noch mal sagen, also der Usus Factus und der Usus Pauper gehören nicht auf eine Ebene. in der Dekretale ex ivit, ex id, Entschuldigung, ex ivi ist 1311, ja. Also ex id ist die Formel gebraucht statt usus arctus, statt der Formel des Bonaventura wird wenige Jahre nach seinem Tode die Formel gebraucht usus moderatus secundum eorum regulam et utilitatem oder sowas, omnimodam, also usus moderatus. Der Terminus in exiit, der zu usus pauper gehört, also wenn wir von einer Radikalisierung sprechen können, dann nur die Radikalisierung des usus moderatus von exiit zum usus pauper in der Diskussion wenige Jahre später. Das ist sicherlich richtig. Ich würde vermuten, ich habe das nicht geprüft, aber ich, vielleicht kann Frau Pastor dazu noch was sagen, dass Olivi schon vor dem Datum von exiit, vom usus pauper gesprochen hat, dass er in der Kommission aber usus pauper, weil es eben ein Kampfbegriff war, nicht durchsetzen konnte und dass deswegen in der Formulierung der Dekretale usus moderatus steht. Der usus facti ist was ganz anderes. Der usus facti will nur sagen, dass dieser Usus, ob der ein Moderat ist oder immer Moderat, ob der Pauper oder Luxuriose ist, das ist dann unerheblich. Der Usus Facti ist jedenfalls ein Gebrauch, der ohne jeden Rechtsanspruch erfolgt. Insofern sind die beiden nicht auf einer Linie zu bringen. Der Usus Facti ist, wenn Sie so wollen, ein Begriff aus der rechtlichen Konstruktion eines Umgangs mit Gütern, währenddessen der Usus Moderatus, der Usus Arctus oder der Usus Pauper oder eben ein laxer Gebrauch der Dinge eine moralische Dimension hat, sodass man also nicht von einer Radikalisierung des Usus Facti sprechen kann, denn der Usus Facti ist nur, den kann man entweder annehmen, das tun die Franziskaner im 13. und im 14. und sogar auch noch im 15. Jahrhundert und heute wohl auch noch, heute ist kein Franziskaner da, dann könnte man fragen, aber ich nehme an, dass es das immer noch gibt. Und das hat sozusagen mit der moralischen Dimension zunächst gar nichts zu tun, sondern nur die Frage, kann ein Mensch ein Käse essen, der ihm geschenkt worden ist, ohne daran Eigentum zu erwerben? Das ist auf eine radikale Formel gebracht, das Problem ist Usus Facti. Und Olivi würde sagen, das kann er. Der Usus Arctus und Usus Pauper besteht darin, dass er den Käse nur isst, wenn er Hunger hat. Nicht? Und der nicht arme Gebrauch besteht darin, dass er den Käse verschlingt, weil er so gut schmeckt. Nicht? Das, wenn wir es also etwas primitiv ausdrücken und überspitzt, würde ich sagen, das ist die Radikalisierung. Olivi verlangt von den Leuten ihren Usus Facti, simplex Usus Facti als Usus Arctus und Usus Pauper zu vollziehen. Das heißt, den Brauch moralisch zu restringieren. Der ja als rechtlicher dann auch ganz frei möglich ist. Herr Lambertini. Lambertini. Solo un'osservazione su questo punto, poi. Mi sembra che forse può esserci una connessione tra la problematica del simples usus facti nella exit e poi quello che segue nel dibattito sull'usus pauper, pur d'accordo con quello che è stato detto dal professor Mitke della differenziazione dei piani, su questo punto nella exit la possibilità del simples usus facti viene fondata con il richiamo alla necessità, cioè esiste uno spazio in cui l'uomo può servirsi dei beni del mondo quando che è definito dalla necessità, dall'impossibilità di rinunciare a sopravvivere e quando da parte oliviana si richiamerà l'usus pauper ci sarà il richiamo al fatto che non si deve andare al di là della necessità. In questo senso mi sembra che ci possa essere una connessione. Grazie. Ich habe den Eindruck, dass wir wiederum die Diskussion etwas in Expertendimensionen entwickelt haben, aber ich glaube, Herr Perenau wollte noch etwas zu Petrus Johannes Olivi sagen. Sie haben doch heute Mittag erzählt, dass Sie eine Bemerkung hätten. Aber ich möchte verzichten. Wieso? Na, ich kann. Ja? No. Posso io allora rivolgere una domanda? Sì, ma sì, lei diceva varie volte qui, ieri e oggi penso anche, questo atteggiamento di Arnaldo da Villanova o di qualcun altro, ma forse era di Arnaldo da Villanova, in cui questo certo atteggiamento escatologico era una spinta di forza, di resistere, di entrare in lotta, no? Mentre Olivi nella lettera ai principi angioini prende una posizione del tutto contraria, non? Cioè li cerca di convincere di soffrire e di sopportare tutte le sofferenze. Vedo un contrasto tra quello, se mi potrebbe rinfrescare un po' la memoria, lei diceva, parlava di un francescano, se non mi sbaglio, o di Arnaldo da Villanova, che francescano non era, o di un francescano, che valeva di questo argomento invece di spingere, per spingere con la forza la lotta, o io ho capito male? Ecco. Siccome abbiamo parlato diverse volte, non so proprio, adesso non ricordo proprio il punto di riferimento, ma penso che forse lei fa accenno a quello che io accennavo, che Arnaldo, a partire di quella tesi che ho intentato di spiegare sì. ieri pomeriggio, Arnaldo, sì. la tesi è: viene l'anticristo e l'anticristo arriva il 1376, o se si fa il conto secondo l'anno lunare, mettiamo 1378, perché lo scatto è soltanto di 2 anni, allora lui arriva fino al punto che la strumentalizzazione delle affermazioni la porta anche fino a questa tesi, perché accetta che la sua esegesi di Daniele in connessione con Matteo 24 potrebbe risultare falsa. Ma c'è un punto che è assolutamente solido, ed è: anche se la mia esegesi della previsione dell'anticristo risultasse falsa, siccome questa previsione avrà portato a un rinnovamento, a una chiarificazione della vita cristiana, allora questo sarà il risultato buono. Ma per arrivare a questo, lui chiede una ordinatio per tutte le province, perché usa questa parola, in tutte le province della cristianità. E dice che i predicatori che verranno in tutti i luoghi a ripetere che l'anticristo è prossimo, eccetera, e allora che ci si deve preparare per resistere alle tentazioni dell'anticristo, questi devono incutere terrore, in terrore mincuziant. Perché? Perché la gente per il pavore vadano alla vita cristiana. Lascino l'amore delle cose terrene e amino soltanto le cose celestiali. Forse è questo, no? Mi ricordava un po' quando c'era quel brano estrapolato dal professor Manzelli sulla paura di tutti i strati della società, quando questi viri evangelici dicevano che l'anticristo, il giudice è già alle porte, quindi un po' c'è questa reminiscenza. Grazie. Ma io volevo dire comunque una cosa e chiederle un'altra. La cosa che volevo dire è: veramente non so spiegarmi come si continua a parlare di Pietro, di Giovanni Olivi, quando almeno le fonti che io conosco, e da noi fonti immediate ce ne sono, tutte, assolutamente tutte, e penso che anche quello che ha pubblicato Erle Denifle sulla, sull'Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters. Pubblicato poco. Pubblicato poco, beh, sì. Ma quello che hanno pubblicato su, sulla commissione, eccetera, che giudicava le opere della commissione, sì. Danani, sì. Sempre, sempre Pietro Giovanni viene denominato con queste tre parole: Frater Petrus Ioannis. Ah, cioè lei discute l'Olivi come... Sì, certamente. Sì. Certamente. Su questo sì, anch'io. Certamente. Su questo una volta a Fanjul si discuteva, non so, una settimana. Perché, sì. Ripeto che la documentazione che almeno da noi è a disposizione della prima metà del secolo XIV solamente, unicamente, è denominato Frater Petrus Ioannis. E quello che posso aggiungere è che Ioannis è il cognome, nient'altro. Ah, cioè non sarebbe il nome del padre come... No, no, no, no, no. Da noi il cognome viene espresso in genitivo. Sempre. Da noi il cognome viene espresso in genitivo, nient'altro. Ioannis, sì. Anche io ho citato un passo Petrus. Nient'altro. E allora, se lei lo nega, venga dai nostri... dai nostri archivi notarili e veda come si pongono i cognomi. Uno solo, no, dico i cognomi, no. Come si scrive il cognome di qualsiasi persona. In genitivo. Il nome in nominativo, il cognome in genitivo. E basta. E così è un fatto. Innegabile. Allora questo, a questo volevo accennare. Allora dopo tanto, tanto studio sulle fonti, come più arriva a imporsi un nome che non è l'originale, e basta, è soltanto questo. La domanda era un'altra e mi pare che sia un po' più interessante. Grazie. A lei risulta che qualcuno di questi personaggi, non dico i tre perché Pietro di Giovanni era morto e adesso non casco in dire l'Olivi, Pietro di Giovanni era defunto, ma qualcuno di questi personaggi o altri alla, sua, alla loro altezza intellettuale si trovasse a San Vittore di Marsiglia l'anno, almeno una parte, del 1306? Lo dirò in un'altra forma. Lei conosce qualche possibile autore che si possa delineare con questi caratteri, per esempio, oltre che la presenza a San Vittore di Marsiglia? Sì, sì, sì. Adesso lei mi porta in mente il mio povero San Ludovico d'Angiò, su cui lavoravo tanti decenni fa. Io in quel tempo lavoravo negli archivi di Marsiglia. E dunque, loro hanno avuto due confessori, ti ricordi? Uno era Francesco Brun, che è tornato in Italia, ma quest'altro, Pierre Scarier, è rimasto in quella zona, Marsiglia o in quella zona. Quindi posso guardare, ecco, non qui ma a casa i miei appunti, ma non è escluso che potesse trattarsi di lui, no? Ed era un francescano? È un francescano, era confessore. Beh. È quello che ha chiamato Olivi ai principi angioini. Sì, sì. Olivi sì, non sì. È andato e ha mandato la lettera. Sì, sì. Potrebbe mi pare essere. Di ricordarlo guardare, anche per la, ecco, per la documentazione sulla presenza dei principi nella Catalogna durante la prigionia. Mi pare, che, mi pare che adesso questo cognome mi sia più o meno noto, ma comunque dovrebbe essere una persona che sarebbe capace di fare un grande commento all'Apocalisse. Poi che ha... esiste questo commento? Sì, questo commento esiste, sì. Ed è grande, voglio piuttosto, dire è importante. Sì, sì, è importante, sì. Poi ha un odio quasi viscerale contro il clero secolare, perché è il clero con cui va tutta la corruzione della Chiesa. Accetta che i religiosi studino teologia, e anche lui nel commento ha una certa inclinazione ad analisi grammaticali, invece non accetta che i religiosi studino scienze naturali o secolari. Poi squalifica totalmente gli ultimi papi. In che anno? 1306. In che anno? Almeno io non potrei dire che sia scritto il 1306. Almeno forse è copiato il 1306. Squalifica gli ultimi papi, 6-7, e prevede che invece i prossimi 6 o 7... No, scusi, se 6-7 papi sono squalificati, non può essere dal 1306, perché un Celestino V non può essere squalificato. Celestino V anche. Se Celestino V è squalificato da un altro ambiente, non da quello che squalifica Bonifacio VIII e gli proprio altri. Nel francescanesimo ci sono questi due binari distinti. Io non dico che sia francescano. Ah, io non dico che questo autore sia francescano. Io ho capito che lei parla di un francescano, cioè no, che lei domanda se io conosco un francescano. No. Allora non lo so. Se questi due che rimangono o altro che sia alla loro altezza, francescano o non francescano, ha queste caratteristiche. È soltanto la domanda. Ma das ist nicht möglich. Purtroppo non saprei rispondere. Facciamo così: io se incontro un personaggio che corrisponde a questa figura, le segnalo. Sì. Grazie. Io volevo sapere una cosa: ma è uscito il volume di, come si chiama il catalano gesuita? Sì, Baglioli. Il padre Baglioli è uscito. È uscito che? Di Arnaldo da Villanova. L'Anticristo, insomma, un grande trattato di Arnaldo da Villanova che lui doveva pubblicare in questi ultimi anni, l'ha fatta? Almeno a me non risulta. Invece pubblicò tanti anni fa, pubblicò proprio l'Exposizio Super Apocalipsi, a nome di Arnaldo di Villanova, e proprio la mia domanda, ho dubbi che quello sia di Arnaldo di Villanova, e proprio per questo sto cercando un altro che sia capace di farlo. Ja, vielen Dank, Herr Selge. Mi ero proposto di tacere questo pomeriggio, dato che avevo ricevuto un invito a tacere o a parlare meno lungo, ma vedendo che la discussione non fra i cosiddetti studiosi, ma fra presidenti, che si è svolta questo pomeriggio, comincio a stentare e a uscire un po' fuori dall'argomento dell'escatologismo, a meno che non si voglia dire che la discussione, per esempio, sull'usus facti o usus pauper di per sé, nel suo contesto storico, sia, il che è vero, una discussione con portata escatologica, questo è sempre vero, però qui non si discute questo aspetto, che il resto è l'argomento della settimana di studio. Allora io vorrei porre la domanda semplicemente che per tutto l'argomento, non soltanto in questa settimana di studio, io vorrei vedere risolto per me, forse c'è una risposta molto semplice, invito a tutti a portare a mia conoscenza quelli che loro ne sanno, come il concetto di Babilone, anche in questi tre autori trattati, sia entrato nel percorso da, diciamo, Agostino a Lutero. Disegnare non più, diciamo, la forza esteriore alla Chiesa, ma la cristianità stessa nella sua forma deteriore, non cristiana. Ora noi abbiamo qui vari elementi tra Gioacchino, anche con il rapporto con la escatologia normale, che dice che l'anticristo sarà nato in Babilonia, in Mesopotamia, e Gioacchino che dice no, è nato in Roma, in senso simbolico o reale. Sì. Poi dice Nova in Babylon, il regno, l'impero, diciamo, l'impero. Ma poi allarga anche, come abbiamo sentito, in senso che tutti i cristiani sono persecutori di Gerusalemme, cioè sono Babilone, che non vivono, che non sono cristiani che di nome. Tutti questi sono. Ora c'è una differenza tra Gioacchino e Pietro dell'Olivo, notevole, poi fino agli altri. Poi nell'umanismo, poi Patriarca, tutti gli altri che si servono di questo concetto. Il che per me è interessantissimo anche per la storia posteriore, perché questo senso più largo in cui questo concetto escatologico e dualistico viene usato è il presupposto dell'applicazione, diciamo, più sempre riformistica, ma nel risultato rivoluzionaria di Lutero. Allora, che Babilone, contrariamente a Agostino, diventa una realtà nascosta sotto il nome della Chiesa che usurpa. Questa la svolta decisiva evidentemente pare avvenga appunto tra in questa serie di di cui si stava discutendo in sede teorica qui e su vari dettagli, ma questo è il contesto che bisogna chiarire. Come si è sviluppato questo cambio di concetto? Questo è anche storicamente importante. Grazie. Ecco una domanda. Sì. No, questa era una richiesta, se no è ottima, sì. Quindi, sì. No, io vorrei pregare il professor Berg se ci può dire qualcosa, se in Germania si sta preparando, secondo quanto risulta da quella seduta di Mönchengladbach, di edizione di qualche testo dell'Olivi. A Mönchengladbach, dico quello che risulta a me, perché il professor Masselli era presente, penso che era nel 83, quindi lui era presente, e lui faceva questa proposta, e forse non c'è male se ne discutiamo un momento, perché i suoi allievi e i miei stanno lavorando sopra. Lui faceva la proposta delle cosiddette edizioni provvisorie, cioè visto e considerato, ti ricordi quello che anche nell'istituto si diceva, visto e considerato che molti di questi commenti esiste un numero notevole dei manoscritti, e visto e considerato che dell'Olivi di commento biblico penso che non sia pubblicato ancora niente, se non fosse utile fare almeno queste edizioni provvisorie. Fu fatto poi qualcosa in Germania, per quanto le risulti o no? Nichts. Ma il Böhr scrive di una pubblicazione del commento di Matteo fatto o da fare da lui e da Flood, non è uscito ancora, no? È un problema per noi. Niente, è una questione che nasce da un'utilità pratica, che può avere anche altri esiti. Ma quegli scritti di Olivi che sono editi sono un po' sparsi, no? Molte volte dico. Beh sì, indubbiamente, perché il Paternoster è imposto. Io sto pensando a una specie di Variorum reprints, pubblicandoli così come sono, ma per averli perlomeno in un unico già sarebbe utile. E io spero di poterlo fare entro il prossimo anno, cioè di mettere insieme, di trovare qualcuno, questo per dire della utilità pratica, intendiamoci, solo pratica, perché ho avuto l'impressione che di Olivi si prenda in considerazione volta a volta, ora questo scritto, ora quell'altro, soprattutto naturalmente quelli che questa volta avevano un collegamento con il tema dell'attesa, ma non sono scritti come il Quid Ponatius e altri di tutta una sfera che secondo me hanno una notevole importanza. Certo, esattamente. Vabbè, ecco, sì, certo, lo diciamo, lo riconosciamo, ma ce ne ricordiamo poi quando affrontiamo altri scritti e magari gli argomenti sono... lo volevo solo dire, io penso di metterli insieme senza cambiare nemmeno la veste tipografica. Grazie. Coraggio. Sind noch Fragen? Ich glaube, wir sind am Ende der heutigen Diskussion. Auch hier wiederum ist zu sagen, dass natürlich sowohl Olivi als auch die beiden anderen, die hier ja gar nicht diskutiert worden sind, Ubertino und Angelo, noch viel Stoff böten. Wir beschränken uns auf das, was hier diskutiert und vorgetragen worden ist und müssen das ungenügende Gefühl haben, dass es sich noch weiter lohnt, sich mit den Figuren zu beschäftigen. Wir werden uns morgen wiedersehen um 9 Uhr pünktlich und werden dann den Vortrag von Herrn Fried über die Endzeiterwartung der Jahrtausendwende, nicht natürlich der Jahrhundertwende, das ist ein Fehler im Programm, also der Jahrtausendwende um das Jahrtausend uns anhören und diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.